in primo piano. Buongiorno di nuovo a tutti gli ascoltatori. Ieri è stata una giornata priva di un grande fatto prevalente, e dunque oggi i giornali spaziano dando in prima pagina evidenza diversi temi. Ad esempio, tre quotidiani di diverso orientamento, di diversa ispirazione, Repubblica, Il Giornale e La Stampa, danno molta evidenza a dei fatti che sono accaduti ieri, a quella che sta diventando una caccia al manager, ovvero in Francia un dirigente è stato sequestrato dai dipendenti che aveva appena licenziato nel proprio ufficio. In Scozia è stata assaltata la villa di un big della finanza, ovvero il direttore della Royal Bank of Scotland, che è stata salvata dal governo e che beneficia di una pensione da 800.000 euro all'anno. In più, in America, i manager dell'IG, il colosso delle assicurazioni, sono ancora minacciati, hanno paura a uscire per strada. E a questo tema la Repubblica dedica un editoriale a firma di Massimo Giannini, in cui si sottolinea che questo rischia di essere l'effetto più dirompente del virus incubato dall'Occidente, un potenziale e colossale ritorno del conflitto sociale. Nella frattura del circuito della rappresentanza, che vede il cittadino globale sempre più isolato e scollegato dall'elite politica, folle di moderni proletari scelgono altrove i loro capri espiatori. Privati dei risparmi, impoveriti nei redditi e derubati di certezze, individuano nei manager, ricchi, apolidi e irresponsabili, il simbolo del male. Sono loro i predoni, sono loro le mosche del capitale che vanno cacciate o schiacciate. Promotori e sostenitori delle nuove ronde anti-manager non hanno tutti i torti, ma quello che sta accadendo è inquietante, scrive Massimo Giannini sulla Repubblica. L'Italia per ora sembra immune. Tuttavia Giannini cita una riflessione dell'Economist che un mese fa aveva fatto un'inchiesta inquietante. Nel mondo c'è un enorme ceto medio globale a spanne 2,5 miliardi di persone che in questi decenni di globalizzazione si è arricchito quanto basta per uscire dalla povertà e per acquisire uno status sociale e una condizione materiale da neoborghesia. La tempesta perfetta rischia di ricacciare questo gigantesco pezzo di umanità sulle sponde desolate del sottosviluppo. E cosa accadrebbe se questa massa di popolo conquistato al benessere ripiombasse in poco tempo nell'abisso della quasi miseria? Beh, l'Economist non dava una risposta. Tuttavia Giannini chiude il suo articolo con queste parole: il nuovo conflitto di classe non è più solo un problema di difesa della democrazia economica, diventa una questione di tenuta della democrazia in quanto tale. Questa rischia di essere la vera posta in gioco, non solo per l'Occidente, ma per il mondo intero. Così Giannini su Repubblica. E anche il Corriere pubblica un editoriale a firma di un giornalista molto famoso negli Stati Uniti, Farid Zakaria, che è una penna molto stimata del settimanale Time, il quale parla del populismo anti-bonus. Zakaria inizia con queste parole: «Non ho alcuna intenzione di difendere i bonus dell'IG. Il guaio dell'indignazione populista è però che si espande velocemente, debordando da un argomento che la giustifica ad altri di natura differente. Il governo americano ora è investito da ondate di populismo su vari fronti. L'area che mi preoccupa di più è quella degli scambi commerciali, in cui il populismo porta inevitabilmente al protezionismo. Ed è questo, secondo Zakaria, la conseguenza più pericolosa di quel che sta accadendo nelle strade di Stati Uniti ed Europa. Infatti i paesi ricchi di solito non aumentano i dazi, ma attuano un altro tipo di protezionismo. Sovvenzionano le loro imprese. Stiamo assistendo alla più grande orgia di aiuti a società inefficienti degli ultimi decenni». E poi Zakaria cita l'industria automobilistica, il congresso che approva la clausola a comprare americano, le vicende sulla siderurgia, e conclude con queste parole: «Sembra ci si stia dimenticando che il mondo è cambiato. Molti paesi saranno in grado di tirare fuori le unghie se l'America tirerà fuori le sue. E l'effetto complessivo di questi confronti sarà il primo vero passo indietro nella globalizzazione degli ultimi 25 anni, un periodo in cui il PIL mondiale è raddoppiato e gli scambi commerciali sono aumentati di 7,5 volte. Così Zakaria sul Corriere della Sera questa mattina. E in tema di crisi, Avvenire propone un articolo di Davide Rondoni, quel che ci tiene insieme in tempo di crisi, a decidere è l'ideale del cuore. E ora che l'ombra della crisi economica sta allungandosi sulla vita di tanti e da ombra si sta facendo pugno sui sogni o sulle aspettative e anche sui diritti, cosa terrà insieme l'Italia? Si chiede Rondoni su Avvenire. No, non dalla politica ci dobbiamo aspettare ciò che unisce, ma dal cuore, ovvero dalla sede del desiderio. Il cuore inteso come sede dell'ideale è la cosa più concreta e decisiva. Se non si prende sul serio questo desiderio di vivere con, di realizzarsi in una coesione, e insomma, diciamo la parola giusta, in una coesione reciproca, allora la disarticolazione, persino violenta, avrà il sopravvento. Se non si coltiva con l'azione e con l'esempio in tutti i campi questo desiderio ideale, se non si fa vedere che esso funziona, sì, funziona nel campo del lavoro, del sociale, eccetera, allora non basteranno tutti i tunnel o tutte le federazioni del mondo a impedire che si viva prima o poi come topi impauriti e rabbiosi nel sottosuolo. Così Davide Rondoni su Avvenire. E l'Avvenire apre con il dramma del Darfur. L'ONU un milione alla fame nel Darfur. È la denuncia del coordinatore delle Nazioni Unite in Sudan. Infatti Bashir torna a sfidare l'ordine d'arresto internazionale, vola in Egitto e annuncia: accetterò solo ONG islamiche. Insomma, questo è un dramma davvero irrisolto e terribile. Veniamo alla politica italiana. Il Giornale dedica ampio spazio, apre con ecco come cambia il piano casa e propone un editoriale di Vittorio Sgarbi, il quale dice: abbattiamo le case brutte e facciamo più bella l'Italia. Il governo non deve solo consentire l'aumento delle cubature, ma anche pretendere il miglioramento di architetture discutibili. Fa una proposta: Berlusconi faccia l'inventario delle opere oscene e ne chieda il rifacimento. E poi accusa Fuxas, Aulenti e Gregotti di essere i protagonisti di 50 anni di orrori edilizi. Ecco, il Giornale affronta questo tema del piano casa da una prospettiva diversa. Dal Giornale cito anche il Controcorrente, spiritoso come ogni giorno: anche il Partito Democratico è rimasto vittima dei titoli tossici. Pare che in particolare quello che li ha portati alla rovina politica sia il titolo di Cavaliere. Così il Giornale, il Controcorrente del Giornale. Passiamo al Riformista, che è sempre in tema di case e del confronto di ieri tra Palazzo Chigi e le regioni. Propone un editoriale anonimo e dunque attribuibile al direttore Antonio Polito: ma chi governa in Italia? Inizia con queste parole l'editoriale del Riformista. Ieri la conferenza Stato-Regioni ha dimostrato ciò che noi del Riformista sosteniamo da tempo. Si tratta ormai dell'istituzione più potente del Paese, con l'eccezione del Consiglio dei Ministri. Un po' alla volta, un po' per prassi e un po' per modifiche costituzionali, la governance del Paese è profondamente cambiata e le regioni sono diventate molto, molto forti, in grado di condizionare anche le politiche del governo nazionale. Quando il governo cerca i soldi per gli ammortizzatori sociali, alle regioni si è dovuto rivolgere. Quando ha tentato una manovra anticiclica sull'edilizia, alle regioni ha dovuto chiedere l'accordo e, non avendolo avuto, ha dovuto rinunciare al decreto e aprire una trattativa. Ciò che l'amministrazione Obama deve trattare con il Congresso, in Italia bisogna trattarlo con le regioni. Non diremo qui se è un bene o un male, né intendiamo esprimerci sul merito della contesa, ma ci domandiamo, se è così oggi, che cosa sarà con il federalismo? Nel paragone con gli altri grandi paesi è evidente che lo Stato-nazione in Italia è più debole che altrove, per motivi storici e culturali certo, ma anche per la stratificazione caotica di norme e abitudini che si è venuta a determinare nel rapporto tra Stato centrale ed enti locali. Il Riformista chiude con queste parole: se ogni volta che si aggiunge un gradino se ne eliminasse un altro, se per esempio il federalismo andasse di pari passo con la soppressione delle province, il gioco non sarebbe a somma zero. Ma andando avanti così, ben presto ci troveremo un paese ingovernabile, per quanto forte voglia essere l'uomo forte che lo governa. Questa è l'analisi del Riformista. Invece dal Corriere della Sera cito un articolo di Gian Antonio Stella, la Sicilia e gli incarichi senza limiti. La mitica assemblea regione siciliana ne ha fatta un'altra delle sue, per fregare la Corte Costituzionale, chiamata a ribadire le incompatibilità che costringerebbero vari deputati regionali a rinunciare ai doppi incarichi, ha votato una leggina. I consiglieri dovranno sì scegliere, ma solo dopo la sentenza finale in Cassazione, al termine di un eventuale processo civile. Risultato: dato che in Sicilia ci vogliono in media 1678 giorni solo per arrivare al verdetto d'appello, potranno finire il mandato senza la seccatura di dimettersi. Insomma, è un altro scandaletto tipicamente italiano, a firma di Stella sul Corriere. Mi fermo per il traffico, vi aspetto tra pochi secondi. In primo piano. Eccoci di nuovo in linea. Riprendo la rassegna stampa dalla stampa, citando un editoriale di Emanuele Macaluso, intitolato Il partito dei moderati e il carisma di Silvio. Domani, come saprete, nasce ufficialmente il PDL, ovvero inizia il congresso che porterà alla nascita del PDL, e Emanuele Macaluso evidenzia come, secondo molti osservatori, questo sia un fatto positivo che colmerà un vuoto dando voce a un partito dei moderati che non è mai esistito. Tuttavia Emanuele Macaluso dice di essere meno ottimista di molti osservatori, perché teme che il PDL possa percorrere lo stesso cammino del PD, che è nato con grandi speranze e alla fine, come abbiamo visto, vive difficoltà molto gravi. Addirittura c'è chi pensa che nel lungo periodo possa non sopravvivere. Ebbene, secondo Macaluso, nel PDL, in termini diversi e con contenuti diversi, si ripropongono le stesse questioni: sintesi politica, leadership, democrazia interna, forma partito, cultura condivisa. Insomma, sia a destra che a sinistra, con le coalizioni o con i partiti coalizioni, ancora oggi sembra essere sempre in una transizione condizionata dal ruolo che ha assunto la leadership di Berlusconi. Una leadership carismatica, nata nel corso di una crisi di sistema, può radunare una coalizione moderata, ma non può dare vita al partito dei moderati se non mette in discussione la sua stessa leadership. Altrimenti la crisi del leader si identificherà con la crisi del partito e la stabilità del sistema, incentrata su quella leadership, a sua volta. Dunque, questo, secondo Emanuele Macaluso, è il punto. Lasciamo la stampa, passiamo al Foglio, che apre con un articolo speranzoso: primi spiragli di luce in fondo al tunnel dell'apocalisse finanziaria. Cita i dati americani, Marchionne che ieri ha dichiarato che la crisi probabilmente, almeno per la Fiat, dovrebbe aver superato il momento più critico. Le banche che risorgono e un report interno al Tesoro sono i sintomi di una crisi in via di guarigione. Beh, speriamolo, insomma, c'è bisogno di un po' di speranza in tema economico. Arrivo ovviamente al Sole 24 Ore, che riprende un tema secondo me molto importante, ovvero la richiesta formulata un paio di giorni fa, ne abbiamo parlato in rassegna stampa in settimana, della Cina, che vorrebbe una moneta sovranazionale che si sostituisca al dollaro. Questo è il tema dell'editoriale a firma di Pietro Alessandrini e Michele Fratianni, i quali sottolineano che Bretton Woods è sparito, ma il sistema rimane in gran parte ancorato al dollaro. L'attuale crisi mondiale sta evidenziando debolezze e contraddizioni del dollar standard. Dunque va interpretata anche come una crisi di monete. Il dollaro è un re ancora potente, ma in declino e senza eredi pronti a sostituirlo. Non abbiamo una moneta leader alternativa. Non può essere l'euro dell'Europa senza unità politica, né lo yen giapponese, né tantomeno lo yuan cinese. Per questi motivi la richiesta di Pechino in un accordo monetario sovranazionale è una disponibilità che va colta da Fed e BCE ed è un'assunzione di corresponsabilità che va sollecitata dai governi europei e americani. Insomma, Pietro Alessandrini e Michele Fratianni invitano l'Europa a prendere in considerazione in modo costruttivo la proposta formulata da Pechino. E da Sole 24 Ore cito anche l'inserto settimanale Nova, che propone, una firma di Luca De Biase, un articolo davvero interessante: penso, dunque siamo. L'intelletto individuale si sviluppa con il pensiero del gruppo e De Biase porta le prove di questo, insomma, prova di quella che viene definita l'intelligenza collettiva, un articolo davvero interessante e un po' diverso rispetto ai temi trattati dai quotidiani. Bene, lasciamo il Sole 24 Ore, arriviamo al Manifesto, che apre con un titolo molto forte: Morirai con dolore. La legge sul testamento biologico diventa una feroce truffa. Il Senato respinge l'emendamento che permetteva l'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione forzate in base alla volontà del malato. Il centrodestra cancella ogni diritto di libertà. Il fronte laico prepara il referendum. E a questo tema il Manifesto propone un fondo di Luigi Ferraioli, I sovrani del corpo. Anche l'Unità punta sullo stesso argomento e propone, a firma di Luca Landò, un'intervista a Umberto Veronesi. Il referendum mi sembra inevitabile. Una legge contro la Costituzione, che invece di tutelare un diritto lo cancella. E Veronesi invita a depositare il testamento biologico prima che la norma sia operativa. Insomma, i giornali di sinistra danno molto spazio a questo tema. Invece il Messaggero continua, come già da qualche giorno, l'inchiesta tra gli adolescenti dedica ancora molto spazio ai problemi della droga, evidenzia come molti ragazzini diventino pusher, ovvero spacciatori di droga, fuori da scuola di buon mattino, e questo capita molto più spesso di quanto si pensi. Insomma, una realtà davvero preoccupante. La Padania: piccoli schiavi, la tratta d'Egitto, la Croce Rossa lancia l'allarme, un articolo di Iva Garibaldi. Se seguiamo i flussi degli ultimi 24 mesi dei minori non accompagnati che sono arrivati a Lampedusa, vediamo che moltissimi sono egiziani e provengono quasi tutti da un'unica località, Garbia, vicino al confine con la Libia. Dunque, secondo la Croce Rossa italiana, ci sarebbe una vera e propria tratta. Una volta giunti in Italia, sarebbero obbligati a lavorare per restituire la somma pagata per la traversata. Dunque, ci sarebbe un'organizzazione dedita a questo traffico. Una realtà preoccupante. Ancora rapidamente, il Secolo XIX ci comunica che quest'estate non ci saranno aumenti sulle spiagge. I gestori delle spiagge hanno ottenuto un rinvio del rincaro delle concessioni e in cambio si impegnano a bloccare le tariffe al livello del 2008. Segnalo ancora la Gazzetta dello Sport, che dedica ampio spazio alla scomparsa di Parisi, che è l'oro olimpico a Seul, il pugile che è morto ieri in un incidente d'auto a Voghera. E infine Libero torna sulla polemica sulle Olimpiadi del Mediterraneo, proponendo un intervento di Giovanni Petrucci, secondo cui Israele non ha chiesto di partecipare ai giochi, e la risposta di Vittorio Feltri, che dice: via, non fate gli ipocriti, potevate sempre invitarlo. Bene, se la rassegna stampa si conclude qui, io vi do appuntamento a domattina alle 7:30 e passo con molto piacere la linea ad Alessandro Milan.